brillare, né mai un barlume, ma più sincera di una lucciola, una perla in fondo al fiume, senza bagliori, né mai certezze, ma così vera che nel cuore il cieco dubbio svanirà. Sempre.